Riflessioni da Marte. Tempi magri, a tratti si potrebbe dire scheletrici, si intravedono nitidamente da quassù da Marte, osservando un po' tutto il globo terracqueo, ma in particolar modo il beneamato stivale italico. Spending Review la chiamano così, che in fondo ha anche un suono musicale, se ci pensate, un po' tra il pop elettronico Spending Review e dolci sonorità swing del passato, o magari anche del tipo Parlami d'amore Mariu, Spending Review. Ma i cittadini sono avanti, ancora prima del governo tecnico, la Spending Review se la sono già fatta in versione casalinga, diciamo, riducendo per esempio i consumi alimentari per quantità e anche per qualità, e sempre più famiglie al sud infatti acquistano non più al discount ma addirittura a hard discount. Una volta di hard c'era soprattutto qualcos'altro, ora pure i discount in tempo di crisi sono diventati hard. Ma c'è anche chi dice no. Ebbene sì, c'è chi dice no. Orgogliosamente è la Sicilia che, alla faccia del suo debito di 5,3 miliardi, ha più dipendenti del governo inglese. E della Spending Review la Sicilia se ne importa un bel piffero. Ma ci sono altri cani sciolti e altri illuminati, a volte anche di luce divina. Diversamente eroi li potremmo definire, come il comandante Schettino. Quello scivolato come uno schettino, ricordate, a sua insaputa nella scialuppa di salvataggio mentre la nave andava giù. Ebbene, Schettino, esentato in questi giorni dagli arresti domiciliari, nel suo memoriale scrive: «Una mano divina si è posata sulla mia testa il giorno dell'incidente della Costa Concordia e mi ha fatto evitare l'ecatombe». E meno male che la mano divina ha stazionato sul suo capino, del resto i morti sono stati solo 32. E quella mano divina che gli ha permesso di essere eroe, salvatore della patria, potremmo dire, che gli ha permesso di esserlo a Schettino, deve essere stata evidentemente anche la stessa mano che nel picco del dramma della Concordia, che andava a picco, ha collocato Schettino dolcemente nella scialuppa di salvataggio mentre gli altri affondavano. E anche la medesima mano divina, a quanto pare, che l'ha sospinto appena giunto al sicuro sull'isola del Giglio a recarsi come gesto assolutamente prioritario mentre la nave con tante persone a bordo faceva glu glu glu glu glu, che l'ha sospinto urgentemente a comprarsi dei calzini nuovi per non prendere i reumatismi. Ma vuoi vedere, a proposito di mano divina, che l'ha scoperta in realtà lui, Schettino, la particella di Dio? Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta, a te ti danno la medaglia d'oro e noi te ci mannamo tutti in coro. E vai.